Stiamo andando online in radio, stiamo anche registrando, stai attento. Grandi, grandi, benvenuti, benvenute a tutti quanti. Qua si sente? Vai. Posso alzare? Ma adesso non serve l'impianto, serve un po' di okay. Perfetto. Buonasera a tutti e tutte, benvenuti e benvenute a questo secondo appuntamento, terzo dell'anno nuovo, dico. Era il secondo? Terzo comunque. Nonché quarto appuntamento di Andiamoci Piano, terza edizione, third edition. Questa volta in un'edizione più ambiziosa di voler fare un appuntamento al mese. Appuntamento al mese per cosa? Per usare questo bellissimo pianoforte che è stato donato a ZAM un paio d'anni fa più o meno e per fargli prendere vita, diciamo, in vari modi. Quest'anno infatti per Andiamoci Piano non c'è soltanto il recital pianistico, ma abbiamo abbinato varie soluzioni. Quindi a gennaio, non mi ricordo cosa abbiamo fatto a gennaio, tu te lo ricordi? Ah sì, è vero, avevamo fatto una serata di lirica, vero, tipo concerto di Capodanno con, è vero, musica lirica accompagnata anche da altri due strumenti, c'era oboe e clarinetto e suonavo io, tra l'altro mi sono dimenticato questa cosa. E invece a febbraio abbiamo fatto la mitica carnevalata degli animali di Saint-Saëns con tantissimi strumenti, perché c'era violoncello, contrabbasso, clarinetto basso, clarinetto normale, violino e il duo pianistico Eric Tornabene, grande, sempre sia lodato, che ha diviso il pianoforte in quattro mani. E invece questa sera abbiamo il piacere di avere il trio che ha un nome, no, il trio rubato. I nomi delle componenti del trio me le sono dimenticate sinceramente, ma sicuramente ve le presenterà meglio il nostro buon Eric Tornabene. In apertura però ci piace anche lasciare spazio a più giovani pianisti, oltre al buon Eric, che sono nostri studenti, nostri allievi. Avremo Ivan Andriola, età 13 anni, che studia con me alla Scuola Civica di Musica di Rozzano, da quando ne aveva più o meno 8. Sette per l'esattezza, vincitore di grandi premi internazionali sia da solista che come camerista in duo col clarinetto. E poi il nostro buon David Farina, che è entrato quest'anno nella mia classe di pianoforte al Conservatorio di Pavia ai corsi non accademici e si spera che adesso entri al triennio. E un bravissimo giovane, molto volenteroso e appassionato. Ci faranno ascoltare dei brevi brani, ovviamente, perché non saremmo riusciti coi tempi. Ivan eseguirà il notturno di Chopin, opera postuma in do diesis minore. E invece David Farina eseguirà un preludio e fuga, il numero 12 del secondo volume in fa minore, e la fantasia improvviso, opera postuma in do diesis minore, anche quella di Frédéric Chopin. A seguire poi avremo un trio di Beethoven, quindi per la formazione classica del trio, che è violino, violoncello e pianoforte. E poi un trio di Shostakovich, il trio di Shostakovich. Ma su questa seconda parte della serata diciamo che sarà lo stesso trio a parlarci e a introdurci alle musiche. Non mi resta però che ringraziare calorosamente ZAM, collettivo ZAM, che da 9 anni abita in questi spazi, zona autonoma Milano, e è un team di portentosi ragazzi e ragazze che si prestano per il sociale e hanno fatto di questo luogo uno spazio per tutti e tutte, e quindi uno spazio culturale, perché uomo significa anche cultura, e quindi è anche bello poter ascoltare della musica che fa parte, diciamo, della nostra cultura da tanto tempo, e che abbiamo scelto, diciamo, che lo sia in un certo senso, perché continua sempre a darci qualcosa, e queste sono delle opportunità tra l'altro importanti anche per i ragazzi, per i giovani che ci credono, che studiano, che si apprestano a farlo, quindi bravi tutti e avanti così. Buona musica! Thank you.

Posso odiare un altro tastino? Dove hai messo l'olio? L'ho messo sul bancone dove c'è... No, lo trovo. Sì, questo qua proprio non... Ma adesso che in quella... Intanto noi ci presentiamo, siamo il trio Rubato, Valerio Battaglia al violoncello, Anna Maria Rusu al violino e io sono Eric Tornabene e suonerò il pianoforte. Quindi... Che riesci? Si sistema. Allora... suoneremo due tri, uno, sì, infatti sto approfittando del momento tecnico. Faremo due tri, un trio di Beethoven, opera 11, quindi un'opera giovanile che lui compone appunto ancora quando era giovane e che si caratterizza per un carattere molto brioso, molto energico e appunto molto anche giovane. È diviso in tre movimenti. Il primo movimento è appunto un movimento energico, dirompente, con tante figurazioni anche veloci, molti passaggi virtuosistici. Il secondo movimento è invece più cantabile, più dolce, più romantico. E un terzo movimento che è basato su un'aria da un'opera che viene presentata prima da tutti gli strumenti e poi si dice viene variata, quindi abbiamo diverse variazioni dove riconosciamo un po' il tema ma viene trasfigurato fino alla brillante conclusione. L'altro trio invece, il trio di Shostakovich, è completamente opposto perché viene composto per la morte di un amico di Shostakovich, quindi il carattere non è più brillante, gioioso, brioso, ma diventa molto pesante, a tratti anche grottesco, insomma è una musica un po' più seria che parla di qualcosa di un po' più profondo. Questo è articolato in quattro movimenti. Abbiamo un primo movimento introduttivo, che Shostakovich è sempre stato un compositore legato al regime comunista, infatti questo trio viene composto nel 1944, ancora durante la guerra, e parla appunto di queste situazioni, di questa Russia un po' desolata, fredda, anche questi paesaggi proprio di natura un po' aspra, ecco. Il secondo movimento invece è molto più energetico, è quasi una danza macabra, se vogliamo, che poi verrà ripresa anche nell'ultimo movimento. Il terzo movimento è come se fosse una specie di marcia funebre per appunto l'amico che era mancato e che è stato forse l'origine di tutto il trio. E l'ultimo movimento, che è una vera e propria danza quasi infernale, molto grottesca, molto umoristica, con anche episodi molto intensi però. Però si vede. Quindi appena siamo pronti, suonere. Il tecnico sta operando? Ora va. Ah, bravo, non è talento. Thank you.

Thank you. Thank you. Rifacciamo il secondo movimento di Shostakovich. Thank you. ringrazio molto innanzitutto perché siete stati, perché ci siete, perché spero che ci sarete anche la prossima volta. E la prossima volta sarà il 19 aprile, un venerdì, sempre alle 19.30 l'aperitivo e alle 20.30 il concerto. Questa volta ci muoviamo dal Beethoven, Shostakovich e quant'altro, Chopin, Bach, e andiamo a finire con una sorta di concerto che ho intitolato Rock da Camera, perché avremo un excursus delle canzoni pop rock con un tastierista, è stato un tastierista di Dalla, dei New Trolls, e più ne ha più ne metta. Si chiama Claudio Tarantola, che è un nostro collega alla Scuola Civica di Musica di Rozzano, con la sua consorte musicale che è Raffaella Sirpe, polistrumentista, che al Carnevale ha fatto anche la violoncellista e la violinista, ma lei crea una violista, okay? E cantante rock, lei ha cantato anche con la Spagna, cose varie, eccetera. E quindi alla Civica infatti lei insegna canto moderno e violino barra viola, e quindi faranno questo concerto tutto in acustico, pianoforte, voce, più qualche, magari di solito lei mi è capitato di vedere che usa anche un po' il violino mentre canta, staremo un po' a vedere, lo scopriremo strada facendo. Non so esattamente quale sia nello specifico il programma, ma sarà, immagino, una carrellata, un po' di brani da, immagino, degli anni 70 o tendenzialmente. E quindi non ci resta che salutarci, e se potete contribuire lo potete fare, e ovviamente tutta questa iniziativa resta più o meno in piedi così. E grazie all'impegno del collettivo ZAM, che si occupa di organizzare con l'aperitivo, che porta una qualcosina e noi eccetera eccetera, quindi se riuscite a darci una mano sia a diffondere la notizia, a venire qui a ascoltare bella musica, sia come volete fare, vi ringrazio, e bravi tutti, viva la musica!